Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Sedicesima unità. Al telefono. Dialogo. Pronto, chi parla? Pronto all'Italia? Sì, mi dica. Vorrei prenotare un volo per Milano per lunedì 15. Devo essere lì assolutamente prima delle 10. Mi pare che ci sia un volo alle 8, no? Trovare posto sul volo delle 8 non è facile. Comunque vediamo, glielo dico subito. Sì, fortunatamente c'è ancora un posto libero. Meno male. Me lo riservi, per favore. A che nome? Stefano Sarti. Un incontro rimandato. Pronto, sono Marco. Potrei parlare un momento con Gianni? Un attimo, te lo passo subito. Ciao Marco, come mai questa telefonata? Non eravamo già d'accordo? Ecco, vedi, volevo dirti che purtroppo stasera non posso uscire con te. Sai, andando in ufficio ho incontrato Laura e... tu cosa faresti al mio posto? Certo, capisco. Allora rimandiamo l'appuntamento a un altro giorno, va bene? Ti ringrazio e scusami di nuovo. Figurati. Scusi, vorrei un'informazione. Pronto? Vorrei il numero di un abbonato di Siena. Com'è il cognome? Martelli. Martelli Antonio. Ce ne sono due con questo nome. Martelli Ingegner Antonio, via Colombo 23 e... È questo. Che numero ha? 23815. Scusi, me lo potrebbe ripetere più lentamente? 23815. Grazie mille. 23815. Senta, potrebbe darmi anche il prefisso? Certo, è 0577. Hotel Diana, buongiorno. Buongiorno, sono il dottor Vinti. Telefono per la camera. Ecco, sarebbe possibile disdire la camera per domani e prenotarla invece per il martedì dell'altra settimana? Non c'è problema, dottore. Sa, aspettavamo una sua telefonata di conferma e non sentendo niente abbiamo dato la camera a un'altra persona. Allora va bene per martedì? Sì, però mi dia la conferma lunedì, per favore. Possibilmente entro le 18. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Pronto all'Italia? Sì, mi dica. Vorrei prenotare un volo per Milano per lunedì 15. Devo essere lì assolutamente prima delle 10. Mi pare che ci sia un volo alle 8, no? Trovare posto sul volo delle 8 non è facile. Comunque vediamo. Glielo dico subito. Sì, fortunatamente c'è ancora un posto libero. Meno male. Me lo riservi, per favore. A che nome? Stefano Sarti. Un incontro rimandato. Pronto, sono Marco. Potrei parlare un momento con Gianni? Un attimo, te lo passo subito. Ciao Marco, come mai questa telefonata? Non eravamo già d'accordo? Ecco, vedi, volevo dirti che purtroppo stasera non posso uscire con te. Sai, andando in ufficio ho incontrato Laura e... tu cosa faresti al mio posto? Certo, capisco. Allora rimandiamo l'appuntamento a un altro giorno, va bene? Ti ringrazio e scusami di nuovo. Figurati. Scusi, vorrei un'informazione. Pronto? Vorrei il numero di un abbonato di Siena. Com'è il cognome? Martelli. Martelli Antonio. Ce ne sono due con questo nome. Martelli, Ingegner Antonio, via Colombo 23 e... È questo. Che numero ha? 23 815. Scusi, me lo potrebbe ripetere più lentamente? 2 3 8 15. Grazie mille. 2, 3, 8, 1, 5. Senta, potrebbe darmi anche il prefisso? Certo, è 0577. Hotel Diana, buongiorno. Buongiorno, sono il dottor Vinti. Telefono per la camera. Ecco, sarebbe possibile disdire la camera per domani e prenotarla invece per il martedì dell'altra settimana? Non c'è problema, dottore. Sa, aspettavamo una sua telefonata di conferma e, non sentendo niente, abbiamo dato la camera a un'altra persona. Allora va bene per martedì? Sì, però mi dia la conferma lunedì, per favore. Possibilmente entro le 18. Vocaboli, pagina 413. Acquedotto. Gas. Enel. Vigili del fuoco. Altri vocaboli di pagina 413. Dettatura telegrammi. Informazioni abbonati. Soccorso stradale. Sveglia automatica. Vocaboli pagina 414. Parrucchiere. Massaggiatrice. Manicure. Estetista. Sedicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 25. Messaggio A. C'era una volta, e c'è ancora per fortuna, il sole. Là nel cielo, bellissimo e potente. Tutti lo amano, perché porta luce e calore. Ma il sole, proprio perché si sente importante, può diventare dispettoso e prepotente. Una volta il sole, era d'estate, colpiva un'isola con i suoi raggi infuocati. I poveri abitanti dell'isola erano assetati e affannati. Mancava l'acqua per loro e per le coltivazioni. Allora le nuvole cominciarono a supplicare il sole. Messaggio B. Tennis. Stefan Edberg ha vinto gli Open degli Stati Uniti. In finale ha battuto l'americano Jim Courier per 6-2, 6-4, 6-0 in poco più di due ore. Per Edberg, tornato numero uno nella classifica, è stato il primo successo a Flushing Meadows, il quinto in un torneo del Grande Slam. In precedenza aveva vinto due volte a Wimbledon e due volte gli Open australiani. Calcio. Juventus e Milan sono a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. La Juventus ieri ha vinto a Foggia e il Milan in casa contro il Cagliari, entrambe per 1-0, così come per 1-0 si sono imposte fuori casa l'Inter e la Lazio. Motociclismo. Luca Cadalora si è laureato campione del mondo della classe 125. Nella penultima prova del mondiale a Le Mans si è piazzato terzo, conquistando i punti della matematica certezza del titolo. Automobilismo. Nigel Mansell con la Williams ha vinto il Gran Premio di Monza di Formula 1. Ha preceduto Senna e Prost. Ritirati Patrese. Messaggio C. Leone, gli astri sono con voi e verranno in vostro aiuto nel corso della giornata. Le circostanze faciliteranno la soluzione di alcuni problemi di lavoro. In amore siate molto diplomatici. Serate con gli amici. Vergine, riceverete una notizia che vi potrebbe facilitare non poco nel lavoro, ma prima di servirvene, indagate sulla sua validità. Non è cosa da prendere con leggerezza. Tensioni in amore in serata. Abbastanza buona la salute. Bilancia. Soltanto se saprete controllare la vostra ansia e se darete prova di pazienza, avrete la possibilità di concludere positivamente la giornata. Serata in compagnia della persona amata. Divertitevi. Scorpione. Avrete la possibilità di lavorare con calma e con soddisfazione. Il consiglio degli astri è di non pretendere troppo da voi stessi e dalla situazione. Bene in amore. Serata molto piacevole. Sagittario. Il tempo che userete per organizzare il lavoro della giornata non andrà perduto. Avrete molto da fare e non potete perdere tempo. Bene in amore. In serata, discreta fortuna al gioco. Capricorno. I nati sotto questo segno oggi avranno molte... Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 428. Pronto? Italviaggi? Scusi, che numero ha fatto? 500-2872. Guardi che ha sbagliato numero. Che numero ha lei, scusi? 500-2873. Ha fatto male l'ultima cifra. Strano, eppure ho fatto il numero lentamente. Allora sarà un falso contatto. Nell'orario di ufficio le linee sono sovraccariche. Provo di nuovo. Spero di non disturbarla ancora. Non si preoccupi. Sono cose che succedono. Arrivederla. Arrivederla e mi scusi. Pronto? Ah, mi scusi, è ancora lei? Eh sì, ha sbagliato di nuovo. Mi dispiace di averla disturbata per la seconda volta. Si figuri. A questo punto è meglio che io vada direttamente all'agenzia di viaggi. Continuando a chiamare, disturbo lei e non risolvo il mio problema. Beh, se ha fretta, penso anch'io che sia meglio andarci di persona.